Riportami sui miei passi, aiutami a capire quando è l'ora di cambiarli. Tu non lasciarmi mai e spero passi smuovendo la prassi solo per avvicinarmi. Riportami sui miei passi, aiutami a capire quando è l'ora di cambiarli. Tu non lasciarmi mai e spero passi smuovendo la prassi solo per avvicinarti. Passa tempo, passa, levami il sassolino dalla scarpa che ogni passo che faccio mi intralcia. Lo sai benissimo che non si parla della sabbia ma di massi così grandi da coprire un'alba. Magari dubito e ti scopro una minaccia, dimmelo subito che ne si parla faccia a faccia. Non è una traccia ma qualcosa di più, e tu aiutami a levarla mentre con qualcosa cambia. Servisse avvicinarla quanto basta stare meglio con me stesso, e adesso non ce la faccio proprio. Lo sguardo su quello specchio non mi rappresenta, aspetta un altro colpo di lancetta per spiccare il volo, e tu fallo. Ne ho bisogno più che mai, e te sai che ho poca pazienza nel complesso. Tempo sei sprecato, fumati la mia sigaretta della vita assieme al vento. Riportami sui miei passi, aiutami a capire quando è l'ora di cambiarli. Tu non lasciarmi mai e spero passi smuovendo la prassi solo per avvicinarti. Riportami sui miei passi, aiutami a capire quando è l'ora di cambiarli. Tu non lasciarmi mai e spero passi smuovendo la prassi solo per avvicinarti. Riportami sui miei passi, aiutami a capire quando è l'ora di cambiarli. Tu non lasciarmi mai, spero passi smuovendo la prassi solo per avvicinarti.